Perché si decide di applicare le armi della narrativa a un racconto storico, a una ricerca storica, a una cronaca di fatti? Perché si decide di raccontare, laddove magari qualcuno ha già descritto, studiato, compreso? Una risposta di solito è che lo si fa con lo spirito del divulgatore. Ci vengono in mente trasmissioni televisive, ci vengono in mente romanzi che in qualche modo hanno divulgato, cioè reso, trasmesso a un pubblico più vasto, ricerche storiche o studi sulla realtà e sui fatti. Ci viene in mente un collega scrittore come Carlo Lucarelli, no? Che indaga i misteri della storia italiana in televisione attraverso gli strumenti della narrativa. Perché lo fa? Perché vuole divulgare certe indagini, certe ricerche, certi testi giudiziari, e lo vuole fare attraverso la narrativa, che tutto sommato viene sempre vissuta come uno strumento per semplificare i testi da cui si parte, il racconto da cui si parte. C'è qualcosa di complicato che di solito pensiamo connesso alla ricerca, allo studio, e la narrativa arriva per semplificare un po' le cose e per renderle digeribili a un pubblico più vasto. Io credo che invece la narrativa serva a raccontare le cose in maniera più complessa, cioè esattamente il contrario. Perché quando noi ci troviamo di fronte a un testo narrativo, in realtà, siamo più aperti alla complessità, la accettiamo più facilmente, ci accostiamo con meno paura alle connessioni complesse del reale e anche con più strumenti cognitivi. Siamo più abituati a seguire la complessità all'interno di una narrazione che non magari all'interno di un saggio, di un testo giudiziario, di una indagine di polizia, di una inchiesta giornalistica serrata. Un autore americano che si chiama Steven Johnson ha scritto un intero libro su questo tema, cercando di dimostrare come l'idea abbastanza diffusa che la cultura popolare e quindi la narrazione in senso lato, in tutte le sue forme, televisiva, attraverso le serie, le fiction, cinematografica, attraverso il fumetto o la letteratura popolare, invece di andare verso una sempre maggiore semplificazione, una sempre maggiore riduzione della complessità dei contenuti, sta diventando sempre più cognitivamente intrigante. Si è passati da 007 a Siriana, si è passati da Starsky Hutch a Lost, e i prodotti narrativi della cultura popolare diventano sempre più complessi e intricati, da un certo punto di vista sempre più intelligenti. Non poniamoci per il momento il problema del contenuto, magari i contenuti possono in alcuni casi non essere, no, estremamente intelligenti, però l'intreccio è cognitivamente sempre più complesso, e quindi sembrerebbe che in realtà narrare, raccontare i fatti, raccontare la realtà sia un modo per conservarne il più possibile la complessità e per riuscire a fare un'operazione di comprensione che non sia allo stesso tempo anche compressione. Noi siamo abituati a pensare che per comprendere dobbiamo comprimere. Da un certo punto di vista è abbastanza banale, ovviamente una mappa di Milano grande quanto Milano non ci servirebbe a granché, no? Per muoverci in città non sapremmo nemmeno come stenderla. Però molto spesso apparentemente per semplificare qualcosa e quindi per comprenderlo, in realtà lo stiamo rendendo più complesso. Per semplificare il traffico tra Bologna, un paese dell'Interland, si potrebbe decidere di costruire una nuova strada. Questo probabilmente semplificherebbe il traffico, ma dal punto di vista della rete viaria, del territorio, il territorio sarebbe più complesso. Quindi molto spesso dobbiamo stare attenti a pensare che cos'è semplificazione e che cos'è invece amore per la complessità. Io penso che molto spesso la narrazione, la voglia di raccontare di fronte a un evento, a un fatto, nasconda o dovrebbe nascondere un amore per la complessità. Un altro elemento che ci porta ad affrontare con strumenti narrativi, quindi a voler raccontare nuovamente quello che è già un racconto di eventi, che è un racconto storico, che è una vicenda, che è un fatto, sono due elementi: il fascino e la frustrazione, due elementi contrapposti. Cioè, se noi scegliamo di prendere, come hanno fatto alcuni dei letterati citati prima, alcuni anonimi, altri no, un evento storico e proviamo a raccontarlo con gli strumenti della narrativa, è perché da un lato siamo affascinati da quell'evento e dall'altro dal racconto che è stato fatto di quell'evento, e dall'altro siamo frustrati, cioè qualcosa che ci piace e qualcosa che invece no. Molto spesso, per esempio, noi siamo affascinati dalla realtà perché la realtà ovviamente ci circonda, ci siamo immersi, e dall'altra parte per lo stesso motivo siamo in qualche modo frustrati. Ne siamo affascinati perché riusciamo per certi versi a prevederla, e dall'altra parte per lo stesso motivo ne siamo anche frustrati, a volte è troppo prevedibile, diventa noiosa. Ne siamo affascinati perché spesso è imprevedibile, quindi la viviamo con curiosità, e altre volte ne siamo frustrati perché è troppo imprevedibile e non riusciamo ad affrontarlo. Fascino e frustrazione sono gli stessi le stesse due polarità che spingono anche i fan di una serie televisiva, di un romanzo, di un fumetto, di una qualunque storia, a provare a raccontarla di nuovo. Mi piace l'universo narrativo descritto da un certo autore, descritto da Tolkien, descritto in Harry Potter o nell'Odissea, sono affascinato da quell'universo, ma gli manca qualcosa, ci sono dei buchi, ci sono delle potenzialità magari non sviluppate, ci sono degli elementi che vorrei capire meglio, e allora posso seguire due strade: da un lato posso scrivere un testo critico, dall'altra posso raccontare un'altra storia, o posso raccontare la storia in un modo diverso, andare a indagare con la narrativa quegli elementi che non mi sembrano sviluppati al massimo. Ci sono due modi per criticare una storia, e a volte a noi per motivi scolastici ce ne viene in mente sempre soltanto uno, cioè la critica attraverso un testo critico che in qualche modo risponde al testo con un altro testo. Ma c'è un altro modo di fare critica ad una storia, ad una narrazione, ed è rispondere alla fiction con un'altra fiction, rispondere ad una storia con un'altra storia, che in qualche modo è critica creativa, cioè è critica che però si esprime attraverso la narrazione. Quindi chi cerca di modificare attraverso gli strumenti della narrazione il racconto divulgato della realtà, che spesso è iperreale, che spesso è simulacro, lo fa per gli stessi motivi per cui un fan si approccia ad una narrazione che gli piace e magari cerca di raccontarla in una maniera alternativa. Questo è abbastanza importante, ha delle ripercussioni interessanti sul ruolo di chi fa questa operazione, di chi racconta, dell'autore di queste storie alternative. Storie alternative che, dicevo, spesso si applicano su simulacri di cronaca, simulacri di storia, no? Nel senso, racconti ufficiali, pieni di stereotipi, santini, oleografie, racconti buoni per parchi di divertimenti, per ricostruzioni in costume, per celebrazioni che ci frustrano proprio perché appunto sembrano nascondere molto altro, e dall'altra parte ci affascinano proprio perché sembrano nascondere molto altro, sembrano negare molte verità, sembrano essere da un lato qualcosa che viene, un mantello che viene steso sulla realtà per offuscarla, però dall'altro sembrano essere anche il punto migliore dove affondare il coltello per fare esplodere delle contraddizioni, quindi ci affascinano e possiamo scegliere di affrontarli con gli strumenti della narrativa. Un altro motivo per cui applichiamo la narrativa alla storia, alla cronaca, al racconto della realtà, è perché la narrativa porta dentro, aggiunge spesso a questi racconti una buona dose di emozioni. Da questo punto di vista, molti studiosi, ricercatori, anche giornalisti, la vedono di cattivo occhio, perché questa aggiunta di emozione sembra essere un sottrarre razionalità. Aggiungo le emozioni, ma dall'altra parte parlo meno alla ragione, che invece non dovrebbe essere contaminata dalle emozioni. Siamo spesso abituati a concepire la ragione in questo modo, no? Come qualcosa che deve affrancarsi dalle emozioni e non funziona se contaminato da esse. In realtà sono passati ormai parecchi secoli da quando si pensava appunto che la ragione potesse essere una sorta di calcolo, no? Completamente immune, che dovesse rifuggere le emozioni. Anzi, oggi le neuroscienze ci presentano la ragione proprio in una maniera rovesciata rispetto a questa immagine illuminista. Ci dicono che la razionalità funziona proprio perché abbiamo delle emozioni. Persone che hanno determinate aree del cervello dedicate proprio al provare emozioni e a riconoscere negli altri che non funzionano, non sanno nemmeno fare scelte razionali. E in effetti noi facciamo scelte razionali non per massimizzare l'utilità attesa, come cerca di spiegarci la microeconomia, ma perché vogliamo essere felici, perché vogliamo provare determinate emozioni e pensiamo di poterle provare con certe scelte. Dunque, in realtà, ancora una volta si rovescia l'immagine. Con l'iniezione di emozioni che la narrazione può dare al racconto della storia, alla cronaca, alla ricerca, in realtà la narrativa può rivolgersi in maniera più piena alla razionalità, proprio perché può appellarsi a quella componente emotiva della quale la razionalità non può fare a meno. Ovviamente questo significa anche che chi racconta deve essere emotivamente coinvolto. E questo va contro un'altra idea nata con l'illuminismo, nata con Kant, che l'artista debba essere disinteressato all'oggetto della sua produzione, no? Debba essere distaccato, non gli deve, quando produce qualcosa di bello, non gli deve nemmeno interessare che sia bello, addirittura, talmente è il distacco, perché il bello dovrebbe germogliare da lui come la foglia dal ramo. Invece, se vogliamo che la narrativa abbia questa funzione rispetto alle emozioni, ovviamente chi racconta, chi narra, deve essere anche coinvolto emotivamente, deve in qualche modo raccontare qualcosa che vorrebbe sentirsi raccontare, scrivere un romanzo che vorrebbe leggere e non soltanto un romanzo che gli va di scrivere e poi finita lì. Le emozioni che la narrazione può contribuire ad aggiungere vengono anche in soccorso ai fatti. Molto spesso si sente oggi dire che i fatti sono scomparsi, che non contano più, che viviamo in una sorta appunto di tribunale dove le prove non contano. Per fortuna in realtà non viviamo in un tribunale, e che sembrerebbe che i fatti non abbiano più nessun valore, no? Esempi come quello di persone che, pur conoscendo i fatti, agiscono contro il loro interesse, no? Quanti di noi si sono chiesti: ma come mai tanta parte della popolazione italiana elegge determinati partiti politici che non sembrano assolutamente rappresentare i loro interessi? E se anche tu gli spieghi nei fatti come mai non rappresentano i loro interessi e continuano a farli, sono deficienti? No. Il nostro cervello, appunto, funziona secondo un modello di razionalità che noi dovremmo sforzarci di capire meglio. Pensare che le persone che si comportano in un certo modo sono deficienti è abbastanza reazionario, no? Noi siamo quelli intelligenti. Se tutti fossero migliori, avremmo risolto i problemi del paese, no? Se tutti fossero migliori, Berlusconi non sarebbe al governo, ma non credo che si tratti di essere migliori. Allora, i fatti. Come facciamo se i fatti non contano? Sono stati condotti degli esperimenti in America, apparentemente terribili, no? Ad esempio, è stato preso un gruppo di elettori del partito conservatore e gli è stato chiesto quanti di loro gli sono state fatte leggere, a un gruppo è stato diviso a metà, a un gruppo sono state fatte leggere dichiarazioni di Bush secondo le quali Saddam possedeva armi di distruzione di massa e quindi bisognava attaccare l'Iraq. All'altro gruppo sono state mostrate invece due documenti, due fatti: da un lato le dichiarazioni di Bush, le stesse, e dall'altro un'intera commissione, un intero verbale di una commissione d'inchiesta sul fatto che Saddam Hussein le armi di distruzione di massa non ce le aveva. Risultato: hanno chiesto al primo gruppo che cosa pensate, Bush si è sbagliato oppure no? Il primo gruppo aveva letto solo le dichiarazioni di Bush. Il 37% delle persone di questo gruppo hanno detto no, non si è sbagliato. In realtà Saddam le ha nascoste. Prima se le aveva e Bush aveva ragione, poi quando ha visto che stavano andando a prendergliele, le ha insambate da qualche parte, le ha messe, le ha distrutte, le ha eliminate. Hanno poi chiesto all'altro gruppo che ne pensate, allora Bush aveva torto, aveva ragione. Il 67% di questo gruppo ha sostenuto no, Saddam Hussein le armi le aveva e poi dopo le ha nascoste. Quindi il gruppo che aveva letto nel dettaglio la smentita attraverso i fatti, attraverso le prove delle dichiarazioni di Bush, in realtà in una percentuale molto maggiore ha continuato a pensare che Bush avesse ragione e che quelle armi, che tutto quel papiro che gli era stato fatto leggere diceva che non esistevano, in realtà esistevano e poi erano state nascoste. Quindi i fatti non contano più, quindi non c'è modo, no, di appellarsi alla razionalità delle persone. Uno decide che cosa credere e poi basta. Beh, il fatto è che appunto il nostro cervello funziona in una maniera un pochino più complicata. D'altra parte, che una smentita raramente possa servire a rovesciare gli schemi concettuali di una persona, il frame concettuale di una persona, lo ha dimostrato con un esempio molto semplice, molto banale e molto noto, George Lakoff, o George Lakoff, quando ha detto: se io entro in una classe e dico non pensate all'elefante, immediatamente tutte le persone presenti cominciano a pensare a proboscidi, grandi orecchie, zanne, esseri pachidermici, eccetera eccetera. Non esiste un'arte della dimenticanza, diceva anche Umberto Eco, no? Ci sono, nel Medioevo sono fiorite arti della memoria, un modo per ricordarsi le cose, ma un metodo per dimenticarsi qualcosa: devo dimenticarmi di un cavallo bianco, ovviamente me lo ricordo, no? Ed ecco quindi che pensare che la sola esibizione di fatti possa rovesciare le narrazioni attraverso le quali le persone si convincono che la realtà stia in un certo modo non è sufficiente. I fatti allora hanno bisogno di qualcos'altro, hanno bisogno di emozioni, appunto, per parlare anche a quell'altra parte spesso dimenticata della ragione, hanno bisogno di un intreccio che li tenga insieme, quindi di una narrazione, di una storia, e hanno bisogno di un'interpretazione. Molto spesso con l'appello ai fatti si traduce nell'appello a un'obiettività presunta, che in realtà spesso è interpretazione nascosta e sottomentite spoglie o quantomeno inconscia, una presunta obiettività che permetterebbe appunto ai fatti di presentarsi in quanto tali, no? E quindi non si deve interpretare. E quindi sembrerebbe che, per esempio, la diretta televisiva, trasformandoci tutti in testimoni oculari, dovrebbe essere il modo migliore per conoscere la realtà. In realtà questo tipo di informazione immediata, senza interpretazione, senza narrazione e senza emozione, ci dice molto poco della realtà, ci informa molto poco e non serve a nulla nel rovesciare, con l'appello alla razionalità, le storie, i canti delle sirene, le narrazioni che vengono fatte continuamente invece intorno al reale. Questo appello appunto all'obiettività sembrerebbe dire, bene, appunto, la diretta è il modo migliore per conoscere le cose. In realtà un evento, per esempio, come il crollo delle Torri Gemelle è stato in gran parte trasmesso in diretta, eppure quella diretta molto probabilmente non ci ha detto quello che realmente ci interessava sapere su quell'evento. È stato uno specchio di quello che stava succedendo, ma tantissime domande ha generato, molto più di quante risposte, anzi più o meno senza dare risposte, no? Quindi il tipo di informazione che ci serve in realtà è sempre meno un tipo di informazione immediata, no? Senza filtri, presuntamente obiettiva, ma è un'informazione che sappia narrare, che sappia raccontare, che sappia intrecciare i fatti, che sappia aumentarne la complessità, perché l'intreccio aumenta la complessità, e quindi che non riduca invece, no, in maniera, a volte si pensa appunto per spiegare le cose alla gente bisogna semplificare, è il contrario, bisogna intrecciare e bisogna interpretare. Da questo deriva un altro motivo per cui ci si approccia con armi narrative alla cronaca, alla storia, al racconto di eventi. Lo si fa con un obiettivo fondamentalmente diverso da quello che può avere il ricercatore, che può avere il giornalista. Qui davvero le due strade in realtà diventano complementari, non contrapposte, no? Perché chi racconta ha come obiettivo fondamentale, come scopo fondamentale del suo narrare, il significato degli eventi. Di solito chi fa ricerca su un evento o chi cerca di descriverlo attraverso una cronaca, molto più spesso ha come obiettivo la verità degli eventi, ricostruire la verità, ricostruire la realtà, no? Sono due cose diverse. Si sente spesso dire la frase si capisce molto di più, si capiscono molte più verità sull'Italia leggendo i gialli di una certa generazione di scrittori che non inchieste giornalistiche, oppure certi giallisti si sono presi la briga di raccontare in quel modo la storia d'Italia perché non c'erano i bravi giornalisti che facessero inchieste su quegli eventi. Secondo me questo è un modo di parlare un po' semplice, no? Descrive magari qualcosa di vero, però non credo che nel leggere un romanzo si debba porre l'accento sulla verità, sulle verità che ho scoperto. In realtà, se leggendo un romanzo scopro più verità che leggendo un'inchiesta giornalistica, probabilmente ha sbagliato il romanziere, perché in realtà un romanzo non è fatto per essere, diciamo, imbottito di più fatti e di più verità rispetto a un'inchiesta, ma probabilmente per fare emergere più significati, per trasmettere un'interpretazione dei fatti con la quale poi il lettore può misurarsi. Quindi sono proprio due piani di misura differenti. La narrazione punta al significato e quindi punta anche al significato metastorico degli eventi, cosa che di solito la cronaca o la ricerca storica lascia magari da parte. Significato metastorico, cioè il fatto che la narrazione di un certo evento mi trasmette significati che possono essere validi sia al momento della pubblicazione di quella narrazione, nel momento in cui racconto, sia anche forse tra 20 anni. Cioè io ambisco a raccontare una storia che in qualche modo sul piano del significato continui a dire cose anche in futuro, no? E quindi a raggiungere un piano metastorico. Come fa il narratore a puntare a questo aspetto del significato? Beh, un primo strumento sicuramente è quello della lingua. Lo abbiamo visto, no? Sul significato delle parole. Il significato delle parole cambia di gran lunga l'interpretazione di un evento, cambia di gran lunga il significato che viene attribuito a quell'evento. A uno storico, in qualche modo, a un ricercatore dei fatti, probabilmente non interessa l'interpretazione della parola che può voler dire temerarietà oppure può voler dire orgoglio, no? Gli interessa ricostruire la battaglia così come è avvenuta. ma utilizzando la lingua, invece, utilizzando la lingua come strumento epistemologico, come strumento di conoscenza, non soltanto come strumento di espressione, noi possiamo far emergere significati diversi dallo stesso evento. Spesso gli eventi attraverso la cronaca sono in realtà raccontati in una lingua molto piatta, molto modesta, e quindi riraccontarli, rinarrarli con una lingua che cerchi di essere ricca, che cerchi di indagare le metafore, che cerchi di scoprire le metafore che inconsapevolmente utilizziamo di continuo, una lingua di questo genere serve, può servire a far emergere significati. Anche nella storiografia c'è stato chi ha sostenuto tesi simili, cioè rispetto al fatto che la narrativa e gli schemi narrativi, le strutture narrative, la metafora, la metonimia, l'ironia, la sineddoche, fossero strumenti della ricerca storica, fossero in ultima analisi i veri strumenti della ricerca storica, no? È il cosiddetto narrativismo, sono le tesi di autori come Hayden White. Io non vorrei invadere, no, con queste idee sulla lingua il campo della storia, cioè mi fermo un attimo prima. Quale debba essere il metodo della ricerca storica lo lascio decidere agli storici. Vorrei però come diceva Paul Ricoeur, che venisse concessa al narratore venisse concessa un utilizzo della lingua che appunto non è soltanto espressivo, ma che è anche ricerca della verità, cioè che la ricerca di significato di un evento non si debba fare soltanto e non si possa fare soltanto attraverso il metodo scientifico, attraverso l'emergere di cause ed effetti, attraverso l'obiettività, attraverso l'ipotesi e tutti altri attrezzi metodologici, ma si possa fare magari in un altro campo, in un campo eventualmente non scientifico, anche attraverso la lingua. E quindi la lingua non sia uno strumento neutro, e quindi quando raccontiamo le cose in realtà stiamo utilizzando schemi concettuali, stiamo utilizzando mitologie. Nel linguaggio è depositata un'intera mitologia, diceva Wittgenstein, e effettivamente esserne consapevoli significa poter far emergere queste mitologie, poter far emergere metafore e poter far emergere significati. Quindi la ricerca del significato porta ad usare la lingua in questo modo, porta a ricercare un punto di vista significativo per raccontare una storia. Quindi un evento, una cronaca, spesso non ha un punto di vista preciso da cui viene raccontata, spesso appunto è oggettiva o cerca di essere oggettiva proprio spogliandosi di un preciso punto di vista. Altre volte racconta il punto di vista, è raccontata dal punto di vista vincente, dal punto di vista di chi ha ottenuto la supremazia e quindi ha potuto raccontare e diffondere il racconto di quegli eventi. Far emergere nuovi significati significa scegliere nuovi punti di vista, punti di vista sacrificati, punti di vista che non sono riusciti a raccontare, ma ancora una volta non per far emergere verità nascoste, ma più che altro per far emergere significati nascosti. Cercare questi punti di vista ovviamente è difficile, perché molto spesso non abbiamo le fonti per ricostruirli. Noi per esempio abbiamo per fare, diciamo, cito un nostro lavoro semplicemente perché è una cosa che conosco bene, abbiamo cercato di raccontare la rivoluzione americana in un romanzo dal punto di vista delle nazioni indiane che combatterono a fianco della corona d'Inghilterra, quindi la Lega delle Sei Nazioni Irochesi. Ovviamente quel punto di vista ci permetteva di far emergere nuovi significati, ci sembrava promettere l'emersione di nuovi significati, ma dall'altra parte era un punto di vista piuttosto difficile da ricostruire, perché il racconto fatto da quel punto di vista, cioè le fonti di quel racconto, non ci sono. Molto spesso gli i protagonisti della storia, da quella parte sbagliata della storia, non l'hanno raccontata, o quel racconto è andato perduto, e lo dobbiamo in qualche modo ricostruire in maniera ipotetica. Ma è molto difficile fare della fenomenologia senza un testo di riferimento, no? È molto difficile ricostruire un punto di vista. Se io voglio ricostruire il suo punto di vista sul mondo, probabilmente ho bisogno di interrogarlo, di chiedergli delle cose, fargli scrivere, di leggere. Farlo soltanto sulla base della conoscenza di chi è lui, so chi sono i suoi genitori, so dove è nato, so che esperienza ha fatto, è molto più difficile. E ovviamente se noi affidiamo a questi punti di vista sbilenchi, obliqui, l'emersione di significato, è poi molto importante come li ricostruiamo, no? Nel nostro caso, appunto, la ricostruzione del punto di vista di popolazioni indiane d'America fatto da un europeo di 200 anni dopo è una cosa abbastanza complessa, no? La ricerca di significato porta anche a un'altra operazione ottica che di solito nella cronaca, che di solito nella ricerca storica non c'è, e cioè la visione di futuro. Quando io racconto, quando io narro, ho bisogno di avere un'idea di futuro, no? Ho bisogno di avere una visione del mondo e quindi delle possibilità del mondo per interpretare le cose. E molto spesso invece la narrativa negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni ha rinunciato a questa visione di futuro, no? Nascondendosi dietro una certa modestia anche a volte. Io non sono qui per appunto per cercare di dire che cosa potrebbe essere il mondo sulla base di quello che è. Io non sono qui per insegnare niente a nessuno, e molto spesso autori che fanno questo discorso vengono applauditi, no? Modesti. Ma in realtà noi appunto abbiamo questa idea dell'insegnare qualcosa a qualcuno, no? Se trasmetto una mia visione voglio insegnare qualcosa a qualcuno, in realtà può essere semplicemente un desiderio di confronto. Per esempio, c'è gli autori di un libro che si intitola L'epoca delle passioni tristi dicono che senza una visione di futuro non è possibile educare nessuno, che l'educazione non si può fare con le minacce, no? Perché con le minacce io non riesco veramente a tirar fuori qualcosa dalle persone, mentre educare è appunto ex ducere, tirare fuori qualcosa. Io tiro fuori qualcosa da una persona se in qualche modo cerco di intravedere insieme a lui in nome di che cosa dovrebbe comportarsi in un certo modo, dovrebbe seguire determinati stimoli, dovrebbe confrontarsi con certi valori. In nome di cosa? C'è un futuro rispetto a questo? Ecco, se questo futuro io non riesco nemmeno a immaginarlo, ma gli sostituisco una minaccia: impara l'inglese perché altrimenti non trovi lavoro, per renderla molto semplice, no? Non impara l'inglese perché questa è un'opportunità di comunicazione con le persone, di confrontarti, eccetera, una straordinaria opportunità di conoscenza, no? Imparalo perché altrimenti tutta la conoscenza vista come qualcosa che deve essere spendibile, che non può essere mai spreco. Addirittura anche lo sport, no? Deve essere sempre l'attività all'aria aperta, deve essere sempre fitness, qualcosa che mi fa bene, che, no? Il gioco dei bambini, sempre qualcosa di istruttivo. Ecco, se tutto viene trasmesso in questo modo, perché il futuro è solo una minaccia, allora tutto quanto viene vissuto come un'arma, come un'armatura per attrezzarsi a quel futuro, e non è. E quindi è posticcio, è qualcosa che viene sovrapposto, non è la tua pelle, non è qualcosa che viene fuori realmente da te, è qualcosa che ti cadi addosso, partiamo, andiamo e affrontiamo il futuro di cui non sappiamo nulla. Ecco, io credo che la narrativa, se vuole giocare e trovare il significato, se vuole trasmettere significato, deve avere anche il coraggio di essere educante in questo senso. Educante in quanto partecipe di una comunità educante, non educante nel senso di insegnare qualcosa a qualcuno, educante nel senso che appunto parla ad una comunità cercando di condividere un'interpretazione e cercando di sforzarsi, rischiare una visione del futuro. Questi sono gli elementi, no, che credo dovrebbero essere presenti al narratore. C'è poi l'idea che in realtà con la finzione, quindi con la narrazione, in qualche modo si comprometta la realtà, no? L'idea che la narrativa che si accosta al racconto degli eventi, alla cronaca e alla storia, in qualche modo la corrompa perché gli aggiunge la finzione, e quindi chi legge non sa più che cosa è vero e che cosa è falso, che cosa ti sei inventato e che cosa non ti sei inventato, e se ti sei inventato delle cose cruciali, mi stai trasmettendo in realtà un significato che non saresti abilitato a trasmettermi, che non potresti trasmettermi, me lo trasmetti perché ti sei inventato delle cose cruciali. Allora molto spesso è stato detto che il narratore che si confronta con la realtà deve avere come riferimento la verosimiglianza, cioè deve comunque sforzarsi di usare l'immaginazione ma in maniera verosimile. Io credo che ancora una volta dobbiamo imparare qualcosa dalla fiction, dalle narrazioni che fanno i fan di una storia. I fan dibattono spesso sul fatto che le loro storie alternative e critiche rispetto al canone debbano essere però compatibili col canone. Però che cosa vuol dire compatibili? Appunto, vuol dire che devono mantenere la storia nello stesso universo narrativo e non fare un salto, no? Quindi per esempio una storia di Star Trek in cui Kirk non è il capitano dell'Enterprise non si può raccontare perché esce dall'universo narrativo di Star Trek, oppure si può raccontare soltanto se è un episodio chiuso che inizia con Kirk che è capitano dell'Enterprise, poi viene magari spodestato per tutto il racconto, c'è un altro capitano e poi alla fine torna a essere Kirk. Allora questa è una narrazione compatibile. La narrazione di una relazione omosessuale tra Kirk e Spock si può fare, è compatibile se dico, certo, nella narrazione originale, nel canon, non viene mai fuori perché non fanno outing, ma in realtà io ti racconto eventi che dimostrano che lo sono. Che cos'è questa compatibilità? Molto spesso i fan si sono messi d'accordo sul fatto di cercare il più possibile di dichiarare fin dall'inizio che tipo di racconto sto facendo. Sto facendo un racconto che segue lo stesso universo narrativo del canone? Benissimo, allora devo rispettare determinate regole di compatibilità. Per esempio quelle che rispetta Carlo Lucarelli quando fai il racconto narrativo Misteri d'Italia in televisione. È un racconto narrativo ma allo stesso tempo è un'inchiesta, quindi se usa l'immaginazione deve metterci tutta una serie di segnali. Oppure posso dire no, sto facendo un racconto alternate universe, cioè in cui vado in un universo completamente alternativo, e allora mi sono permesse altre cose. Io credo che quando noi affrontiamo la cronaca e il racconto della realtà, l'immaginazione debba avere una possibilità, no? E non debba essere completamente vincolata solo dalla verosimiglianza, no? che si possa azzardare cose anche non verosimili, perché poi in qualche modo rendendo la narrazione che uno fa una sorta di continuum tra realtà e finzione, dove alcuni pezzi sono realtà, altri sono finzioni, e molto spesso si è nello spazio intermedio tra le due, come nella mixed reality, che spesso è lo spazio virtuale che viene utilizzato oggi, no? In tanti ambiti non viene più utilizzata una realtà completamente virtuale, nella scienza, nella sperimentazione con simulazioni, ma una mixed reality in cui c'è comunque dentro abbastanza realtà per permettere la comunicazione e abbastanza virtualità per andare oltre. Lo stesso Pasolini, nel suo famoso scritto su che cos'è questo golpe, io so, diceva: io so perché sono uno scrittore, quindi appunto conosco i significati perché ho imparato a usare le parole e la lingua in un certo modo, e diceva: io voglio avere la possibilità di usare l'immaginazione laddove non ho le prove, no? E credo che questo debba essere uno dei meccanismi, uno dei motivi, una delle frustrazioni da cui parte la narrazione. Sono frustrato perché non ho le prove, eppure io so, e allora immagino, e allora uso la narrazione per raccontare in una maniera alternativa quella storia. Questo significa semplicemente che quando leggiamo romanzi di questo tipo, narrazioni di questo tipo, una volta chiuso il libro non abbiamo finito, non abbiamo imparato tutto. Sono libri, sono narrazioni che ci stimolano a continuare la ricerca, ma dovrebbe essere così sempre, anche quando leggiamo una narrazione che si pretende completamente vera, completamente aderente ai fatti. Noi dovremmo continuare la ricerca, no? A maggior ragione oggi che gli strumenti di ricerca sono più potenti e le possibilità di andare a controllare quanto di vero c'è, quanto di immaginario magari in una storia, e quindi quanto è significato che mi trasmette l'autore, quanto è riferimento a fatti reali, è in qualche modo più semplice. Recentemente c'è stato il caso del film di Spike Lee, Miracolo a Sant'Anna, no? Spike Lee è stato accusato, in particolare dall'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, di aver travisato i fatti, di non aver raccontato in maniera fedele la verità della strage a Sant'Anna di Stazzendo. Dall'altra parte Spike Lee si è difeso dicendo: questo è un racconto, è una finzione, quindi è chiaro che non ho raccontato la realtà, no? Sono assolto. Io credo che abbiano torto tutti e due. Da una parte chi pretende da un racconto la totale aderenza alla realtà, però dall'altra anche chi ritiene che l'uso della finzione lo assolva. No, l'uso della finzione ti rende ancora più responsabile. Cioè, se alcune cose le hai inventate tu, le hai immaginate tu, allora devi rendermene conto ancora di più. Allora vuol dire che lo hai fatto perché mi volevi dire qualcosa, perché mi volevi trasmettere un significato, e di quel significato devi essere responsabile. Se quella tua immaginazione mette le cose in un'ottica, o il punto di vista che hai scelto mette le cose in un'ottica particolare, ne emerge un significato particolare, tu te ne devi assumere la responsabilità. Concludo la cavalcata dicendo che un altro motivo, gli ultimi due motivi, il penultimo è che usare la narrazione per accostare appunto cronaca, storia, racconto della realtà, significa anche affidare questi racconti a una comunità allargata, esattamente come quando il fan, invece di scrivere un testo critico sull'omosessualità in Star Trek, scrive una fiction in cui Kirk e Spock sono omosessuali e non lo dicono. Immediatamente quel testo fa riferimento a una comunità, evoca una comunità, evoca la comunità delle persone che sono affascinate e forse anche frustrate dal canone, dalla serie di Star Trek, e si mette sullo stesso piano però di queste persone. Chi scrive quella controfiction in qualche modo non è un fan speciale in mezzo a fan meno dotati, no? Non è un autore al pari di chi ha scritto la serie al quale gli altri guardano come autore. Chiede alla sua comunità di confrontarsi sul suo racconto, ma di confrontarsi tra fan. Ecco, allo stesso modo credo che chi approccia la realtà e la storia e la cronaca con la narrazione chiede, evoca una comunità, la comunità delle persone che sono affascinate e frustrate da quello stesso racconto della realtà, e evoca una comunità rispetto alla quale si pone in un rapporto paritetico. Sono anch'io un fan, frustrato e affascinato come voi, dalla mia frustrazione è nata questa narrazione, questa critica creativa al racconto della realtà, chiedo a voi di fare altrettanto, chiedo a voi di intervenirci sopra, di riraccontarla a sua volta, magari con altri strumenti. Io ho usato la lingua, magari un altro potrebbe usare per l'emersione del significato un altro strumento, perché lo padroneggia meglio, no? E pongo in qualche modo la mia opera come punto, come magnete che possa attirare tutti questi tentativi di riflessione, di rinarrazione, di reinterpretazione. Quindi è un tentativo, è una richiesta di raccontare insieme, cioè non attribuitemi un ruolo speciale, non delegatemi, non affidatemi, non affidate soltanto a me il compito di riraccontare, di narrare cronaca e storia e realtà, ma facciamolo insieme. E questo perché narrare, approcciare con gli strumenti della narrativa questi racconti è un modo per lottare, è un modo per difendersi dal canto delle sirene, no? Orfeo, quando faceva parte dell'equipaggio della nave Argo e la nave si trovò a passare di fronte agli scogli delle sirene, non consigliò a Giasone, all'equipaggio, come fece Ulisse, di tapparsi le orecchie con la cera, oppure di legarsi all'albero di Maestra per ascoltare, però bloccati, il canto delle sirene. Non suggerì di inceppare il canto delle sirene in qualche modo, di bloccarlo, ma cantò tutto il suo repertorio migliore, le melodie più soavi che conosceva, per contrastare il canto delle sirene, perché l'unica alternativa per non subire una storia è raccontare mille storie alternative.